Europa 24. Buongiorno da Sergio Nava, bentrovati a questo appuntamento con Europa 24. Europa ed Expo, questo è il tema di cui torniamo a occuparci oggi. All'interno dell'esposizione universale, il padiglione comunitario ha organizzato nelle ultime settimane numerosi incontri tematici sul futuro dell'alimentazione. Uno di questi che abbiamo raccontato già nelle ultime settimane è stato il Food Drink Europe Congress 2015, organizzato dall'industria europea dell'alimentazione e dedicato al futuro del settore. Il congresso ha avviato in particolare una riflessione sul nuovo panorama del commercio internazionale. L'Europa è il più importante esportatore di prodotti alimentari e di bevande nel mondo. Tuttavia, negli ultimi anni l'industria comunitaria ha registrato un declino nella quota di mercato a causa della maggiore concorrenza e di alcune barriere al commercio. Questa è la premessa dell'incontro, cui ha preso parte John Clark, direttore dell'unità relazioni internazionali bilaterali presso la DG Agri della Commissione europea. Clark ricopre anche la posizione di capo negoziatore dell'Unione per il cruciale capitolo agricoltura all'interno del TTIP, l'intesa di libero scambio transatlantico attualmente in fase negoziale tra Bruxelles e Washington. Sentiamo allora cosa ci ha detto. Ci sono tre o quattro considerazioni da fare, dice John Clark. La prima è che il settore dell'agroalimentare in Europa è un settore di successo, cresce molto rapidamente e il suo futuro sarà sempre di più legato all'esportazione extraeuropea. Il mercato europeo è ormai molto maturo. Quindi l'occupazione, dice, sarà creata attraverso l'export, soprattutto nelle economie emergenti, quali l'Asia orientale, la Cina, l'India e anche l'Africa. L'Africa, nel lungo periodo, ha delle prospettive straordinarie di crescita. L'altro aspetto importante è che l'Europa non può competere sulle derrate di base. Dobbiamo specializzarci in prodotti a valore aggiunto e l'Italia è un grande esempio in questo senso. Inoltre abbiamo osservato come i costi di produzione siano molto alti in Europa. Questo lo dobbiamo soprattutto ai nostri elevati standard. Parlo di standard di salute ambientali e di salute animale, per esempio, senza dimenticare i costi energetici. Il risultato, afferma John Clark, è una qualità del cibo europeo molto alta. Siamo insomma riusciti a tradurre questi elevati costi in una valorizzazione dei nostri prodotti. Dobbiamo continuare in questa direzione. Lei considera l'Expo di Milano una vetrina per le eccellenze agroalimentari italiane ed europee? Chiediamo a John Clark. Expo is all about food and feeding the world. L'Expo è una manifestazione sul cibo e sul nutrire il mondo, risponde. È una grande sfida per i prossimi 50 anni. L'Europa ha un ruolo da giocare nella sicurezza alimentare, in quanto maggiore importatrice ed esportatrice di prodotti alimentari. Dobbiamo fare la differenza. L'Italia è un grande esempio di successo a riguardo. Guardi alle performance del settore agroalimentare italiano negli Stati Uniti. Expo è una grande vetrina per l'Europa e per l'Italia. Sector, which is one of your leading industries. Vediamo ora al trattato di libero scambio transatlantico. C'è forte preoccupazione sul possibile abbassamento degli standard alimentari come risultato del TTIP. Siamo ancora all'inizio del processo, ma in quanto Commissione europea, come potete assicurare che i nostri standard di sicurezza alimentare saranno mantenuti dopo l'eventuale firma del trattato? Chiediamo ancora a John Clark. Well, we're simply not negotiating them. I mean, we are not discussing in the negotiations in TTIP. Semplicemente, risponde, i nostri standard non sono negoziabili. Non toccheremo i nostri requisiti per il welfare animale, non toccheremo i nostri standard ambientali, non toccheremo le normative che proibiscono l'utilizzo di ormoni nella produzione di carne. Sono punti che non compaiono nei negoziati. Gli Stati Uniti capiscono la nostra posizione e l'accettano. Se lei guarda al trattato che abbiamo firmato con il Canada, che è molto moderno e dettagliato, non abbiamo toccato per nulla i nostri standard. Questo lo dico per rassicurare i consumatori. Non cambierà nulla. I nostri standard fanno parte del nostro brand. Le persone, i consumatori, hanno fiducia nel nostro cibo e nelle nostre bevande. Sanno che hanno un'alta qualità, sanno che sono sicuri, sia che si tratti di prosciutto europeo o che si tratti di latte in polvere europeo, che esportiamo tra l'altro in quantità gigantesche verso la Cina. I cinesi lo comprano perché sanno che è sicuro e prodotto secondo elevati standard. I nostri standard sono sicuri all'interno del trattato di libero scambio transatlantico, conclude John Clark. Our standards are safe in TTIP. Ed è tutto per questa puntata di Europa 24. Un saluto, buon pomeriggio da Sergio Nava. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.